dal sorriso, direi, tutto ciò. Meno male. Perché la cosa che mi ha accolto quando ho incontrato Damiano, il quale apposta è lì col sorriso, perché è una, le accuse che sono mosse nei suoi confronti, come a tutti i 19, diciamo, di questa tornata, sono veramente risibili, cioè delle cose veramente che fanno ridere gli avvocati, le cose che fanno ridere gli avvocati e che mettono un sorriso a chi le dice, nonostante, insomma, sappiamo quanto sia, come dire, visto che non è a casa della Santa anche, purtroppo, e la questione, insomma, potrebbe anche essere tutto sommato piacevole, ma quello che mi ha colpito apposta è il sorriso di Damiano in tutto ciò, e questo qui vorrei che contaminasse un pochino l'atmosfera con la determinazione che abbiamo sempre avuto, ma anche con la consapevolezza di fare qualcosa di estremamente giusto, e questo qui che secondo me rende, come dire, imbattibili Notav, perché è una causa verso la quale non si riesce a trovare ragioni contrarie, nonostante ce la stiano mettendo tutta e nonostante mettano in piedi questi dispositivi di repressione veramente, ahimè, ridicoli per come sono stati. Vi dico solo una cosa, che praticamente Damiano, essendo una persona che va sempre a volto scoperto, che si è, come dire, inserito, no, proprio in valle, rimanendo lì per molto tempo e aiutando attivamente, mettendo a disposizione la sua intelligenza e la sua capacità, è stato preso in, vabbè, insomma, mi sto perdendo un attimo perché sto in una situazione un po' bizzarra, sto raccogliendo le olive. Esatto, bizzarro posso sembrare. Un po' bucolica, ecco. Esatto, una situazione bucolica. Comunque, lui era a botto scoperto, è stato riconosciuto perché era la persona che stava cercando di mettere pace nella situazione. È veramente ridicolo e non si capisce come possano poi andare avanti con questo procedimento, perché su di lui veramente non c'è nulla. Vedendo anche il modo in cui, cioè, le ragioni per cui sono stati ristretti ai domiciliari gli altri compagni che hanno fatto questa azione della scalatura del Gabrio a Torino, ci sembra altrettanto ridicolo, perché proprio dalle dichiarazioni stesse dei dipendenti della società all'interno del palazzo, insomma, che era stato occupato, non parlavano assolutamente di violenze, parlavano di una situazione assolutamente tranquilla. C'è un articolo molto interessante che sta circolando in rete in questi momenti, proprio di un giornalista del Corriere, che era lì con loro, quindi nemmeno a dire di una, come dire, testata così particolarmente, esatto, che tutto sommato non può non dire, cioè, guardate, cioè, io ero lì e non è successo veramente nulla. Quindi a me, devo dire che tutta questa operazione veramente puzza molto di polpettone avvelenato, cioè una polpetta avvelenata come al solito messa ad orologeria, come ha detto Pierino, da pochi giorni prima di quello che succederà dell'incontro di Lione e della conseguente contromanifestazione fatta dai movimenti notabili di tutta Europa, e a ridosso dell'8 dicembre, che è un po' come la data dell'immacolata ribellione, la presa di Venaus, dove era già previsto in Val di Susa una 3 giorni di attività, insomma, legate però alla commemorazione, in qualche modo alla celebrazione di quella grossa vittoria che fu la riconquista del cantiere di Venaus. Quindi questo un po' mi sembra a me una situazione assai debole dal punto di vista giudiziario, che quindi si risolverà con l'ennesima fuffa. Il problema è che abbiamo adesso queste persone dentro e qualcosa evidentemente toccherà fare. Noi ci siamo visti ieri come Forte e abbiamo lanciato questa riunione, un'assemblea per oggi pomeriggio alle 6:30 al Forte, proprio per condividere le idee che sono venute fuori e annunciare in pratica. Questo qui ve lo posso in qualche modo anticipare perché sono stato in contatto con la gente della Valle, che l'8 dicembre cambia fisionomia in qualche maniera, quindi da essere un appuntamento più locale diventerà un appuntamento nazionale, quindi noi ci auguriamo e faremo di tutto, metteremo a disposizione, insomma, quello che possiamo fare come Forte, chiaramente insieme a tutti coloro che hanno in questi ultimi anni lavorato sul TAP, per cercare di organizzare una salita in massa in Val Susa per l'8 dicembre. Senti, questo quindi diciamo una parte di quello che si discuterà, poi ovviamente ci sarà l'assemblea. Tu e la compagna, abbiamo sentito prima di te, mettete giustamente, sottolineate questa data dell'8 dicembre e la data precedente che è quella della manifestazione di Lione, una manifestazione di Lione che ha tutta una serie di punti molto interessanti da rimarcare, sia la sua internazionalità, perché ci saranno coordinamenti provenienti da diverse parti d'Europa, ma anche perché proprio in queste ultime ore dalla Francia stanno giungendo segnali molto precisi per quanto riguarda il futuro della tratta, no? Sì. Beh, come diciamo che questi segnali sono già arrivati per tanti versi dal Portogallo, sono già arrivati dall'Ucraina, che ignora totalmente l'esistenza di questo corridoio, e adesso anche dalla Francia di Hollande, che evidentemente con il pragmatismo che insomma ha sempre distinto, nonostante tutti i limiti di quello Stato, una volta che sono fatti quattro conti, hanno detto ma costi-benefici, evidentemente è preferibile dare quei soldi previsti per il TAV alle linee minori, ai servizi destinati ai pendolari, piuttosto che a qualcosa che non avrà una ricaduta positiva sullo Stato, sulle persone, come l'impresa impossibile del TAV e l'attraversamento della Torino-Lione a Venaus. Quindi anche i francesi, ormai è notizia di questa mattina, si stanno tirando fuori, che lascerà insomma l'Italia come splendida, solitaria a portare avanti questo discorso. Adesso questo vertice fra Monti e Hollande un po' chiarirà, ci auguriamo, i contorni di questa vicenda, che diventa sempre più ridicola. È un po' un paradosso come queste persone attaccate al potere e al denaro, che insistono nonostante la crisi che ci sta stravolgendo le vite, a portare avanti quest'opera totalmente inutile. Senti, in tutto questo però noi che diciamo come compagne e compagni Movimento No TAV, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te, secondo voi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Insomma, noi ci troviamo adesso con un sacco di persone agli arresti domiciliari. È vero che diciamo le accuse sono risibili, però sono comunque diciamo situazioni abbastanza fastidiose, ecco, usiamo un eufemismo. Vabbè, chiaro, non c'è bisogno di rimarcarlo, però come dire, se noi volessimo provare a cercare di capire quello che può accadere nell'immediato futuro, o dobbiamo aspettarci una recrudescenza di questo tipo di operazioni? Che dire, insomma, non è la palla di cristallo come non ce l'ho io, però. Esatto, insomma, credo che al di là di questa mia, ahimè, incapacità nel vaticinio, quello che posso immaginare che possa una bestia ferita si muove in modo compulsivo e crea danni in modo abbastanza imprevedibile. Io veramente non lo saprei, so solamente una cosa, quello che posso dire, solo che attraverso la condivisione dei percorsi, attraverso una partecipazione diretta, ecco, qualcosa si può cambiare veramente. Se a fronte di 19 persone ristrette ai domiciliari, altre 190 o 1900 si presentano a prendere il loro posto e a stabilire con il loro corpo, no, il rifiuto al TAV, ecco, questo qui mi sembra la risposta migliore e il futuro migliore che posso immaginare, no? In una presa di consapevolezza sempre più ampia, una capacità da parte nostra, da parte di chi adopera i mezzi di comunicazione a chiarire i contorni di questa vicenda che viene presentata dai soliti puzzoni dei media come la svolta del il lavoro, cioè, qui insomma stanno prendendo in giro la gente dicendo arriverà finalmente del lavoro, come se non ci fossero delle occasioni per reinvestire quei stessi soldi che stanno sperperando in questa maniera in opere veramente utili. Quindi ci sarebbe il lavoro da creare, ma non a vantaggio di quelle quattro imprese che vogliono arricchirsi sulle nostre spalle. Io penso che l'unica risposta che vedo nella mia palla di vetro, nella piccola palla di vetro, è una risposta collettiva che tenda a stabilire, a ripetere, a non fare un passo indietro rispetto alla questione del TAV in Val Susa. No, l'ultima cosa che volevo chiederti, poi ovviamente se vuoi aggiungere qualcos'altro hai tutto il tempo che vuoi, a Lione sarà una manifestazione internazionale e ci puoi già preannunciare chi sarà presente, diciamo, oltre alle realtà italiane e ovviamente a quelle che si battono contro la TAV dall'altra parte delle Alpi? Che io sappia, ecco, questo qui magari ne dovresti parlare più con i Valsusini che hanno seguito, abbastanza di su, sono da poco tornato in Italia, come sai, e mi sto reinserendo proprio in questi giorni nelle varie cose, mio malgrado, diciamo, sto meglio dove stavo. E quindi questo dovremmo verificarlo più con i compagni in Valsusa. Sicuramente, da quello che ho letto, insomma, in questi giorni saranno presenti delegazioni di tutti i comitati che in un modo o nell'altro si oppongono o ragionano, insomma, intorno alla questione del TAV in Europa. Quindi che dovrebbe toccare passare apposta per Slovenia, Bulgaria, Ungheria e Ucraina nella parte est, e invece Francia, Spagna, Paesi Baschi, tra l'altro, dove sai benissimo che c'è in corso, insomma, un'opposizione assai strenua a questo progetto, e il Portogallo ormai ha già definitivamente abbandonato l'idea con un minimo di realismo politico, che insomma speriamo che si avvicini anche alle politiche che Monti intenderà assumere rispetto al TAV, questo qui. Però ecco, io ci aspettiamo un grande a Lione, una grande riunione da parte di tutti quei movimenti che in Europa si stanno opponendo al TAV, e ci sarà anche una sorta di contro summit che insomma penso che aiuterà a condividere i percorsi di lotta nei prossimi mesi a livello europeo. Benissimo Manolo, allora se non hai altro da aggiungere, noi intanto ricordiamo l'appuntamento assembleare di questo pomeriggio, dicevi alle 18:30 al Forte Prenestina a Centocelle, e poi immagino che ci risentiremo subito nella mattinata di domani, insomma, per raccontare un po' com'è andata. Giusto aggiungere che domani c'è un concertone, ti dico, c'è un gruppo hip hop molto figo di cui io ignoro praticamente tutto perché sono ignorante. Però sai che è figo. Quale... No, io sono una pippa in queste cose. E comunque dicono che spacca. E quindi domani approfitteremo proprio di questa occasione, della presenza di tanta gente, per fare parecchia informazione su questo tema. Quindi invitiamo anche a partecipare e ci auguriamo di essere in grado già da domani di raccogliere le prenotazioni per i pullman che dovrebbero salire poi l'8 dicembre in Valsusa. Quindi un'occasione per fissare da subito il proprio posto e non perdere questa occasione. Partecipare direttamente, quello che serve è mettere in gioco i propri corpi, le proprie menti in una battaglia che possiamo vincere, una delle rare volte dove oggettivamente possiamo vincere e dobbiamo mettercela veramente tutta. Benissimo, anche perché poi l'8 dicembre alle porte, insomma, è fra esattamente una settimana. E mi raccomando, col sorriso, questa è la cosa che ci contraddistingue, questa è la cosa che ci rende veramente imbattibili. Assolutamente. A proposito di sorriso, noi ovviamente salutiamo a 36 denti Damiano, che immaginiamoci ci starà ascoltando. Oh, yeah. E niente, noi ci vediamo invece questo pomeriggio al Forte, come detto. Dai, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti, stasera, ciao.